Radio 24. Libera la voglia di fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. After all the way we see, I got my hands full of machine. You could just put online, so I got some peace of mind. Secondo chi sta indagando, alcuni componenti dell'equipaggio di questa nave ONG avrebbero avuto contatti con i trafficanti libici per portare i migranti in Italia, i cosiddetti scafisti. Adesso capite perché l'anno scorso da noi ne sono arrivati 180.000 e in Spagna soltanto 8.000 di migranti? Ora sia chiaro, io non pretendo alcuna scusa, non mi interessano le scuse, ma mi auguro innanzitutto che la politica e tutti coloro che non hanno perso occasione di infangare il nome di quel magistrato si scusino con il procuratore Zuccaro, che per primo ha denunciato i fatti relativi agli incontri e ai rapporti tra ONG e scafisti. Eccoci qua, buonasera a tutti cari ascoltatori, 18 e 8 minuti, ben ritrovati con Si può fare, stiamo insieme fino alle 20. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta naturalmente. Allora, proprio mentre il Parlamento insomma dà il via libera a questa missione di supporto alla Guardia Costiera nel contrasto all'immigrazione clandestina, vanno avanti le indagini e suscitano diverse polemiche su alcune di queste navi di ONG che, anziché soccorrere i migranti nel momento in cui stanno rischiando la vita, anche se non è facile capire quando uno sta rischiando la vita, insomma, ci sono trasbordi, ci sono contatti con gli scafisti, ci sono saluti, ci sono intercettazioni, e per questo la Procura di Trapani sta indagando. Di Maio, Movimento 5 Stelle insieme alla Lega sono stati tra i primi a sostenere le indagini della Procura di Trapani su questo, quindi adesso dice avevamo ragione noi. Serve una legge, non un futile codice di condotta. Di questo gioverebbero anche tutte quelle organizzazioni che svolgono correttamente le loro attività umanitarie nel Mediterraneo. Noi di legge ne abbiamo depositata una mesi fa ed è a prima firma Alfonso Bonafede e prevede proprio la presenza di polizia giudiziaria a bordo delle navi delle organizzazioni non governative. Il PD ha tutti i numeri per portarla in aula e farla votare subito. Se serve, propongo di riaprire il Parlamento ad agosto e approvarla subito. Aggiungo che la presenza degli organici di alcune organizzazioni non governative di persone con un profilo non collimante con quello dei filantropi appare di indubbia rilevanza e giustifica, a mio avviso, delle indagini in tal senso. E questo era proprio Zuccaro però di qualche tempo fa, anche perché le indagini di adesso sono coordinate da altri magistrati. Insomma, io ho detto difficile stabilire se uno in quel momento su una nave sta rischiando la vita oppure no, però ci sono delle immagini che mostrano chiaramente mare calmo, gommoni che stanno andando avanti, gli scafisti o insomma chi sta sulle navi dei migranti. Spesso lo scafista è uno che sta sulla nave anche lui, poi si finge migrante come gli altri anche lui, si incontrano con la nave, vengono portati sopra, poi trasportati su altre navi e così via. Insomma, per la magistratura sì, l'ipotesi è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sentiamo Esposito, onorevole Esposito del PD, con una uscita che ha fatto gridare qualcuno allo scandalo, un'espressione fuori tono. Sentite che cosa dice. Ci sono queste alcune organizzazioni non governative che hanno una posizione ideologica o ideale dal loro punto di vista, per cui il tema è esclusivamente salvare vite umane. Noi non ce lo possiamo permettere, tant'è che il discrimine tra chi ha firmato la proposta, diciamo, di codice di autoregolamentazione al Ministero degli Interni, e chi non l'ha fatto segnala esattamente questo. E soprattutto a sinistra, apriti cielo, ma come, un esponente del PD che dice che salvare vite umane è un fatto ideologico, anche se poi Esposito quasi si corregge subito, dice ideale. Vabbè, forse si è espresso male, perlomeno si è espresso male, perché dire che salvare vite umane è un fatto ideologico è sbagliato, è un dovere morale. Bisogna capire se in quel momento ci sono delle vite umane da salvare oppure no, e se le ONG rifiniscono per tirare su tutti, anche quelli che non stanno rischiando la vita. Questo sì, si può dire, si deve dire, e si sta dicendo. Per i politici però, oh ragazzi, si avvicina il momento delle vacanze. Quando sei in Abruzzo a 2 ore da Roma, vacanza è una parola grossa. E non sono un po' tanti 40 giorni di chiusura per non so se siano molti, ma visti i danni che fa il Parlamento nei restanti mesi, penso che siano pochi. Beh, Rotondi sempre molto autoironico, ma è parlamentare in questo momento Rotondi? Sì, penso proprio di sì, perché se no non sarebbe stato intervistato dal Fatto Quotidiano, che ha fatto questo mini reportage, questo mini intervista ai parlamentari che transitano per le ultime ore nei dintorni dei palazzi della politica a Roma. Da operaio che ero in Svizzera ne facevo 6 settimane. Io personalmente mi annoierò sicuramente, perché dopo una settimana io non so stare fermo, e questo me lo dice anche mia moglie. Razzi non sa cosa fare, se sta fermo a casa, glielo dice anche sua moglie, ma cosa fa quando fa il parlamentare? Buttiglione, sentiamo Buttiglione. Montecitorio è chiuso, io però lavoro e come me tanti penso. Sarò a Bruxelles fino al 15 di agosto, poi andrò in vacanza a Gallipoli, mia città natale, andateci se potete, che vale la pena, non costa neanche tanto. E poi il 23 parto per Città del Messico, dove lavoro di nuovo. E questa invece è la retorica del lavoriamo, lavoriamo sempre, anche se non siamo in Parlamento lavoriamo lo stesso. I parlamentari che dicono lavoriamo, lavoriamo, e che lui lo chiama lavoro, lui lo chiama il lavoro, ma in realtà nella vita Buttiglione fa il parlamentare dal 1994, 23 anni, quindi beh, giudicate voi. Adesso, oggi tra l'altro, è la giornata del gaffe di due esponenti dell'MDP, l'MDP, il partito di Bersani e Speranza. The gaffe, insomma, diciamo così. Intanto l'onorevole Elisa Simoni, che in TV gli parte un lapsus. Cifre strabilianti, stratosferiche. Allora, se non fosse una questione anche politica, non si spenderebbe quelle cifre per un giocatore che si sposta al Barcellona e al Paris Saint-Germain, che se è la squadra sua. È un'operazione differente. Quando comprarono in Francia il lusso francese, si comprarono immediatamente anche la squadra di calcio, come un'operazione nazionale popolare per farsi accettare di più. Vabbè, gli è scappata la squadra di calcio, non c'è niente di male. E invece l'onorevole Sannicando si lancia in questo affondo in Parlamento contro il Movimento 5 Stelle, ma prende il giro largo, forse troppo. Dice la collega che un giornalista, non so come abbia fatto, abbia rilevato all'interno dei gabinetti di questa dell'aula delle tracce di cocaina, e lei è preoccupata perché dice che la cocaina, le sostanze psicoattive, modificano le condizioni psichiche del soggetto e ne alterano l'equilibrio psicofisico. Le sostanze stimolanti, come la cocaina, conducono a delirio di persecuzione, allucinazioni, distacco dalla realtà, senso di onnipotenza, eccitazione, iperattività, attacchi di collera, pensiero incoerente, riduzione della capacità di autocritica, egocentrismo. Ma di chi stanno parlando? Del gruppo 5 Stelle. Vabbè, voleva essere ironico l'onorevole Sannicandro, ma non si è capito nulla. Sembrava quasi che se poteva parlare di sé o di qualunque altro parlamentare, insomma, poteva essere anche il suo autoritratto, quello, non necessariamente di un esponente del Movimento 5 Stelle, ma tant'è. Allora, intanto però, la notizia del giorno, secondo me, è questa. Pare che si stia diffondendo un nuovo divieto terrificante, quello di andare in spiaggia, cioè divieto di andare in spiaggia con la borsa termica. In alcune spiagge ti fanno pagare un extra di 5 euro. Allora, la motivazione ufficiale, accade a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, è che vogliono evitare problemi con il cibo che eventualmente un cliente porta e di cui non conosciamo l'origine, e soprattutto per evitare che venga lasciata troppa immondizia in spiaggia, sentite qua, come accade spesso, altrimenti avremmo difficoltà serie, ma è una cosa pazzesca, a rispettare l'obbligo di raccolta differenziata. Quindi niente borsa termica, oppure devi pagare 5 euro. Il sospetto? fondatissimo secondo me, è che ti vogliano spingere a comprare il panino al bar o andare al self service o al ristorante. Si sono viste queste cose qua, ti guardano male quando entri con la borsa termica. Però dobbiamo reagire, amici del mare, amici delle spiagge, amici delle borse termiche con dentro la lasagna, il panino, la frutta. Dobbiamo reagire, perché questo è un divieto che non può essere tollerato. Non si può vietare alla gente di mangiare il panino in spiaggia. È un divieto, secondo me, incostituzionale. Allora, accade anche nelle vostre spiagge? Come funziona da voi? 800 24 00 24. Giusto secondo voi che si vieti la borsa termica in spiaggia? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Intanto sulla borsa termica arrivano i primi messaggi al 349-238-6666. C'è chi dice, difende questo divieto, che secondo me è assurdissimamente assurdo, giusto perché gli italiani sono privi di senso civico. Vabbè, ma che vuol dire? Uno che va con la borsa termica e non ha senso civico, che cosa fa? Rovescia il cibo per aria? Qualche briciola di pane su una spiaggia è un problema? Ma veramente stiamo dicendo? Non lo so. Però c'è anche chi dice, avanti, andiamo tutti in spiaggia con la borsa termica. Sono d'accordo. Lo farò quest'estate. Salutiamo Luca Frusone, deputato del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Difesa. Buonasera, benvenuto, Frusone. Buonasera, salve. Non so se anche lei vuole andare in spiaggia con la borsa termica per protestare contro questo divieto. Ma lo farei volentieri, sì, mi sembra proprio un'idiozia. Sembra un po' un'idiozia. Voi sulle concessioni, sul servizio pubblico. Se sono quelli i motivi, allora sarebbero da vietare ad esempio anche le sigarette, visto che ogni volta si trovano mozziconi ovunque. Però non credo che a nessuno sia venuta in mente questa idea, quindi vedo anche io un pochino il dubbio che siano... I commercianti, insomma, che vogliono vendere di più. So che voi siete sensibili sul tema delle concessioni e servizi pubblici, quindi ho fatto bene a dirglielo. Senta, però il tema, lei è anche membro della Commissione Difesa, è questo, insomma, parliamo della Via Libera, intanto della missione di supporto alla Guardia Costiera nel contrasto all'immigrazione clandestina sulla Libia. Però restando sul tema, titolo di tutti i giornali di queste ore, l'inchiesta sulle ONG, voi siete stati tra i primi, insieme alla Lega, a sostenere le indagini di Trapani quando qualcuno diceva no, ma non è possibile che le ONG abbiano delle collusioni o siano dei contatti con gli scafisti, eccetera, eccetera. Ora avevate visto giusto, forse. Che succede adesso però, Frusone? Innanzitutto queste indagini vanno avanti da un anno quasi, quindi in realtà sia la procura di Catania che quella di Trapani comunque avevano lavorato in precedenza, quindi tutto questo ad esempio con l'accordo con le ONG non c'entra granché. Bisogna fare innanzitutto i complimenti a queste procure che non si sono fatte fermare anche un po' dall'informazione che da subito ha attaccato un pochino anche i procuratori, oltre che noi, perché questo è anche da dire, nel senso che eravamo stati accusati di tutto, di essere razzisti, di essere chissà cosa, quando in realtà chiedevamo solamente di vederci chiaro, niente di che. Poi, come avete visto, ci sono anche delle ONG tipo Save the Children che ha firmato subito l'accordo perché non ha problemi, mentre altre per loro motivi non hanno firmato. Ora che accade? Che innanzitutto bisogna far rispettare quell'accordo. Noi avevamo anche fatto una proposta di legge che è stata snobbata, come diceva Di Maio, per la polizia giudiziaria a bordo, che non vuol dire controllare le ONG, perché vuol dire dare la possibilità a queste procure di avere un'arma in più, perché molto spesso lei, io ho sentito prima, diceva ad esempio che ci sono gli scafisti che si mescolano a, sì, ai profughi e via dicendo. Beh, un conto è far partire un'indagine giudiziaria, un'indagine vera e propria, quando arrivano magari al porto, dove ormai molte delle prove, magari eventuali prove o anche determinati comportamenti ormai non possono essere più visti. Un conto invece è vedere già al momento in cui si arriva, si affianca il gommone, per fare un esempio, se c'è qualcuno che dà ordini, se c'è qualcuno che magari chiede o ordina agli altri passeggeri determinate cose, beh, forse quello non è un semplice passeggero, ma è appunto uno scafista. Il punto che lei sta toccando è questo, cioè, e lo voglio sottolineare per farlo capire bene, cioè se l'ONG in quel momento non ha a bordo un militare, per esempio, giustamente se ne frega un po' della questione se uno è uno scafista o no, cioè certo, il suo obiettivo è trarre in salvo i migranti. Se invece c'è un uomo della Guardia Costiera, un uomo della Polizia Giudiziaria che può riconoscere quello che stava dicendo lei, in quel caso può anche intervenire. Non è solo che se ne frega, ma non hanno i mezzi. Cioè, un conto è che c'è un investigatore, appunto, c'è qualcuno che ha a che fare tutti i giorni con queste cose, ci sono anche, come dicevo, fa attenzione a tutto questo, e allora può da subito capire se c'è uno scafista a bordo, oppure se è un gommone, ad esempio un natante, che a bordo ha sì un timoniere, chiamiamolo così, ma in realtà è lui stesso un profugo. Perché come accade oggi, accade questo: ci sono i gommoni che pagano meno, non hanno a bordo gli scafisti, istruiscono uno che doveva pagare, magari non paga, gli dicono dove deve andare in attesa di incontrare qualche nave. Se c'è un gommone che parla di più, ecco che hanno anche il servizio scafista. Sembra assurdo dirlo, sì, ma ci sono dei veri e propri listini con degli optional. Uno, volendo, pagando molto, può anche avere una barca di supporto con un meccanico eventualmente. Questo accadeva più, sì, prima, quando le rotte erano più lunghe, dovevano arrivare fino a Lampedusa. Oggi quindi... è diverso, sì, perché appunto noi siamo sui confini libici, ora con la missione che è stata approvata siamo proprio dentro, quindi hanno meno problemi a raggiungere queste navi. Senta, ma dal vostro punto di vista, in questo momento il governo si sta muovendo quindi nella direzione giusta con la missione sulle coste libiche e con il codice di comportamento richiesto alle ONG, che è un'iniziativa, oggi il commissario europeo lo ha detto, è un'iniziativa europea, anche se poi la sta portando avanti l'Italia? Il codice, per quanto ci riguarda, è un passo in avanti. Noi l'avevamo chiesto già tempo fa e non siamo stati ascoltati, come dicevo prima siamo stati attaccati, anzi, ora invece Minniti per la stessa cosa si prende gli applausi da tutti. Per quanto riguarda invece la missione in Libia, hanno sbagliato tutto dal mio punto di vista, dal punto di vista del Movimento 5 Stelle, perché potrebbe creare più danni che benefici, perché innanzitutto questa missione, diciamolo subito, non andrà minimamente a intaccare la questione dei flussi, perché abbiamo due navi davanti il porto di Tripoli, sì, basta spostarsi 200 chilometri più in là con i barconi e farli partire più in là, e quindi ecco che abbiamo completamente superato queste due navi che abbiamo davanti al porto di Tripoli. In più c'è un problema politico. Questa, in realtà, noi vediamo questa missione da parte dell'Italia come un appoggio politico a Serraj. Oggi in Libia ci sono due uomini che in realtà non bastano nemmeno a governare tutta la Libia. Abbiamo da una parte Serraj, che è quello riconosciuto dall'ONU e che l'Italia, su cui l'Italia ha sempre puntato da 5 anni a questa parte, 4 anni a questa parte, e poi sì, c'è il generale Haftar, che invece ha un vero controllo del territorio di gran parte della Libia, non tutta, perché poi ci sono altri attori più piccoli, perché la Libia è in realtà governata dalle varie tribù locali. Senta, e però quindi, sì, prego, prego. Dicevo, l'Italia facendo con questa missione ha come posso dire, dato un appoggio a Serraj, facendo capire alla Libia, mandando un messaggio alla Libia che quello è il nostro interlocutore, però mantenendo fuori Haftar, che invece è quello che stamattina ha detto che bombarderà le nostre navi e dà la possibilità di farlo, perché lui ha un esercito dietro di lui. Quindi noi, anziché parlare con entrambi, come ha provato a fare Macron, poi ha fallito anche lui perché questi due non si possono proprio vedere, come diciamo noi, però almeno lui ha provato a parlare con entrambi. L'Italia continua a sbagliare, secondo noi, perché chiude le porte in faccia ad Haftar. Non dico che lo deve prendere come interlocutore principale, ma dovrebbe, e questa è un'altra cosa che noi avevamo chiesto mesi e mesi fa, sì, fare un tavolo di pace in Italia con tutti gli attori, non solo Haftar, non solo Serraj, ma anche altri esponenti che magari nei nostri, sui nostri giornali non appaiono, che però sono importantissimi per arrivare a una... Beh certo, se vuoi pacificare Libia, due litiganti devi parlare con tutte e due. Però sulla esatto, Libia, sul passato, sugli errori fatti nel passato in Italia, si discute ancora, si dà la colpa a Napolitano in particolare. Faccio sentire Di Battista. Io, presidente Giachetti, reputo, questa è una mia valutazione politica, presidente Napolitano il massimo responsabile dei disastri che sono stati commessi in Italia negli ultimi anni. Ecco, però la domanda, al di là della responsabilità di Napolitano o Berlusconi, eccetera, eccetera, ma è questa: fu un errore deporre Gheddafi militarmente? Sicuramente adesso col senno di poi lo pensano in molti. Ma io le voglio domandare questo: se non, l'Italia non avesse fatto questa cosa insieme alla Francia e agli Stati Uniti, l'avrebbero fatto loro da soli? Cioè, non è che se noi non ci fossimo stati di mezzo questo non sarebbe accaduto. Quindi l'Italia si è accodata per una questione di opportunità, ma sarebbe accaduto lo stesso. Quindi che senso ha adesso ancora tornare su quella vicenda? Beh, ha detto bene lei, si è accodata, cioè ancora una volta, come stiamo facendo adesso con questa missione, che è una rincorsa goffa a quello che ha fatto Macron, perché Macron sta cercando di diventare l'interlocutore principale con la Libia. Anche a quell'epoca partì la Francia, insieme anche Inghilterra e Stati Uniti, e noi abbiamo rincorso. Invece di rincorrere, dovevamo con altri mezzi fermare quello che stava per accadere in Libia per mano dei francesi e degli altri paesi. Questo dovevamo fare, non rincorrere ed aiutare a bombardare, sperando poi di poterci dividere qualche briciola che cadeva dal tavolo di queste altre nazioni, perché questo è successo. Noi abbiamo rincorso, abbiamo provato a salvare il salvabile, hanno provato a salvare il salvabile e in realtà non è che ci sono riusciti granché. Si doveva fermare prima questi paesi, si doveva discutere seriamente di un intervento e quell'intervento non, in realtà alla fine, anche dal punto di vista, dovevamo anche valutarlo dal punto di vista del diritto internazionale. Fino a che punto era lecito e poi soprattutto si andava naturalmente a intervenire su un dittatore, però era lo stesso dittatore con cui tutti quei paesi avevano fatto affari, oltre che naturalmente Berlusconi, perché non è solo Napolitano il responsabile. Napolitano doveva garantire l'Italia, ma la decisione è stata presa da Berlusconi, quindi questo è stato un grandissimo errore del centrodestra dal mio punto di vista. Senta, ricordo solo che ad esempio Sarkozy aveva preso un sacco di soldi per la sua campagna elettorale da Gheddafi e quindi è stata una missione incredibilmente ipocrita e bisognava intervenire prima parlando con questi paesi, non tanto con la Libia, e arrivare magari ad un compromesso. Veniamo però al presente, anzi al futuro, gliela butto lì. Tra un anno, voi siete al governo, lei ha la bacchetta magica e può fare quello che gli pare. Qual è la prima cosa che farete per arginare, contrastare, controllare quello che imputate adesso al governo di non saper fare, cioè l'immigrazione clandestina e gli sbarchi? Guardi, paradossalmente c'è più da agire al nord dell'Italia che al sud. Mi intendo parlare innanzitutto con l'Europa, perché la Francia, ad esempio, svolge un ruolo importantissimo non solo per la Libia, ma anche nel Mali e nel Niger, da cui passa tutto il flusso migratorio. Allora, se si vuole, è inutile in un certo senso fermare la frontiera più a nord dell'Africa, se poi comunque le persone partono dai loro paesi di origine, quindi si dovrebbe intervenire appunto all'origine. In Mali, in Niger, noi già stiamo dando tantissimi soldi tramite le Nazioni Unite, tramite altre organizzazioni per risollevare quei paesi, ma in realtà questi soldi, ecco, una cosa che si dovrebbe fare è capire questi soldi a chi vanno in mano, perché se stiamo finanziando magari il generale, il signore della guerra locale, continueremo a far spostare queste persone. Quindi prima di tutto si deve discutere a livello non solo europeo ma anche con gli Stati Uniti di che cosa si deve fare con l'Africa. Dopodiché, per quanto riguarda l'Italia, c'è anche una dimensione interna, cioè dovremmo fare noi i compiti a casa, noi abbiamo varie, cioè? Noi abbiamo varie commissioni per quanto riguarda le richieste d'asilo. Beh, hanno dei tempi biblici. Il problema anche dei rimpatri, in un certo senso, è questo, perché passano 18-20 mesi prima che troppo, qualcuno venga o accettato l'asilo o venga dinegato. Quindi che succede? Che tutte queste persone appunto rimangono in questo limbo giuridico e non si capisce che cosa si vuol fare. Prima, in un certo senso, l'Italia se ne fregava di tutto questo, anche quando c'era ad esempio il centrodestra al governo, perché loro riuscivano a scappare verso il centro Europa e quindi non diventavano più un problema dell'Italia. Ma ora che stanno controllando le frontiere, ecco che l'Italia si trasforma in un tappo. Va bene, grazie. Quindi, grazie, buona serata. Frusone. Sono alcune cose che vorremmo fare. Va bene, grazie, grazie. Buona serata. 800 24 00 24, la borsa. Tra poco torniamo. Vi annuncio che sulla borsa termica si sta scatenando l'inferno sugli sms al 349 238 6666. Dopo, però. Quando comprarono in Francia il lusso francese, si comprarono immediatamente anche la squadra di calcio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Io vado al mare solo con la borsa termica, scrive Anton Giulio da Roma. Boicottare le spiagge, andare nelle spiagge libere, suggerisce Marco. E poi ancora, ma come, non permettono il cibo ma le sigarette sì? È assurdo, le sigarette inquinano, il cibo diventa concime. Borse termiche sì, multoni a chi lascia rifiuti, un altro ascoltatore. E qui iniziano i distingui, perché c'è anche chi scrive al 349-238-6666. Dopo la scatoletta di tonno pulita in mare, non ti sembra che il divieto sia almeno ragionevole? Un po' di buonsenso. Ma io vado al mare con la borsa termica, ma non butto la scatoletta di tonno nel mare. Ma siete pazzi? Ma chi butta la scatoletta di tonno? Cioè, quella è una cosa che uno va lì, lo prende per la collottola e dice non va bene. Succederà a qualcuno che è un pazzo completamente. La scatoletta di tonno nel mare. Un altro che dice mangiare in spiaggia è riprovevole. Ci possono essere bottiglie di vetro e se si rompono ci sono i vetri in spiaggia. Mangiare in spiaggia è riprovevole. No, dai, vi prego. No, no, no, no. Mangiare in spiaggia è bellissimo e non può essere vietato in nessun modo al mondo, secondo me. 800 24 00 24, però accade a Marina di Pisticci, in provincia di Matera, dove in realtà non è vietato, ma ti chiedono di pagare 5 euro di extra se entri con la borsa termica. Stefano da Venezia, vai, buonasera. Pronto, buonasera Alessio. Ecco. Allora, io volevo intervenire riguardo a questa cosa, diciamo, della borsa termica. Io abito vicino a Jesolo, Lido, sì. E praticamente frequento la zona della Pineta, dove c'è uno stabilimento balneare ben gestito, e il 99%, essendo lì una zona dove non ci sono alberghi, per cui la gente non rientra a pranzo, tutti arrivano con il frighetto, con la borsa termica, e comunque ci sono tutti i vari, diciamo, cestini con la differenziata. Certo, non è nelle spiagge attrezzate c'è quello, ma c'è quasi ovunque il cestino rosso per la plastica, quello giallo, eccetera. Sì, per cui nessun tipo di problema, abbiamo, diciamo, tutti i vari contenitori per ogni rifiuto, insomma, per cui nessun problema. Stessa cosa settimana scorsa, sono stato giù a Milano Marittima, idem. Cioè, Sì. Ma possono tranquillamente convivere, l'incivile sarà sempre, però non puoi vietare alla gente di mangiare in spiaggia perché qualcuno incivile lascia la plastica, perché... Ma poi anche lì, adesso il sindaco credo che sia di questo paese, basta che metta dei cestini con la differenziata e educa anche le persone, se proprio dice che non sono educati, non è un problema secondo me. Va bene Stefano, grazie, buona serata, ciao. Nazario da Forlì. Pronto? Vai Nazario, sì, sono Nazario. Forte e chiaro. Allora, io volevo intervenire invece sul discorso delle ONG e del trasbordo dei migranti. Sì. Ricordo che tempo fa alcuni movimenti politici, non faccio il nome, tanto si sa chi è, presero posizione insieme ai procuratori siciliani dicendo che c'erano delle cose che non tornavano. Infatti adesso sta venendo fuori la verità e non vedo da parte delle forze politiche che di primo acchito andato dei razzisti, dei nazisti, compresi mezzi di informazione, anche ho seguito anche delle vostre trasmissioni, tutti schierati con le ONG che ci mettevano tutti le mani sul fuoco. Adesso invece che qualcuno si è scottato la mano, silenzio di tomba anche dai mezzi di informazione nazionali. D'Azario, però posso dire una cosa? No, sì, posso sì. Concludere? Concludi. Questo va di nuovo, a mio avviso, a detrimento del fatto che abbiamo un'informazione in questo paese che non è all'altezza del paese che dovrebbe essere l'Italia, secondo me. Va bene, è giusto perché tu la pensi così, la puoi pensare così tranquillamente. Però devo dirti una cosa, intanto che lo stesso procuratore ieri ha detto che a quel che hanno appurato fino adesso non viene mai meno, come dire, l'obiettivo umanitario da parte delle ONG, che poi favoriscano l'immigrazione clandestina di fatto sì, ma non c'è un'intenzione al momento, a quel che ho capito io dalle dichiarazioni del procuratore, non c'è una intenzione diversa da quella umanitaria, di fatto poi finiscono per aiutare e va bene. Nazario, grazie, buona serata. Andiamo con Bruno da Verona. Sì, buongiorno. Niente, volevo intervenire a riguardo lì dell'OMG. Sì. Niente, sono la Guardia Costiera Libica o chi per esso, sono sì. Molto attenti a intervenire sui pescherecci che sono italiani e sono probabilmente nelle acque internazionali a confiscare, non so, a sequestrare le navi e farle entrare nel loro porto. Per fortuna un elicottero italiano recentissime ha fatto sì che non avvenga questo. Sì, è accaduto a un peschereccio di Mazara del Vallo, credo, esatto. Nelle ultime ore. Io mi domando, sì, se i libici sono così attenti ai nostri pescherecci e non sono attenti a tutte le imbarcazioni, i gommoni che partono dai vari posti della loro costa. Cioè, questo è un po'. E noi diamo in mare i soldi, mandiamo là i contributi per far sì che loro facciano qualcosa. Mi sembra che fanno di più contro i nostri pescherecci. Io non sono un pescatore, però mi metto nei panni di quei pescatori che fanno il loro lavoro. Insomma. Sì, va bene. Bruno, grazie. Buona serata. Erano, credo, però fossero autorità tunisine essere intervenute nei confronti del peschereccio. Però il suo concetto non cambia. Giuseppe da Pesaro, buonasera. Niente, ha sintetizzato un ascoltatore prima, Borsa Termica e Mutoni, perché i maleducati non sono un'eccezione, ma sono la regola, purtroppo. Diciamo che può capitare di vedere. No, sì. Non può capitare nelle case. No, può capitare, capita. Io vedo però, tanta sì. Plastica, che ne arrabbio tanto. Sì, è sì. Però lei pensa che, Giuseppe, che vietando l'ingresso con la borsa termica o facendo pagare il surplus, si limiterebbero queste persone come sono evidentemente degli imbecilli? Come principio la borsa termica va bene, come principio. Ma anche controllo, perché la maleducazione è troppa. La maleducazione è troppa? Allora quando vediamo uno affianco a noi che lascia la plastica sulla spiaggia, diciamoglielo. Non deleghiamo tutto al divieto, all'assurdo divieto, che poi dopo vieta tutto per tutti e non vieta nulla in realtà, perché il comportamento... Non ci accorgiamo sempre, no? Delle volte, specialmente nelle calette non controllate, libere, si trova di tutto. Va bene. È una grande maleducazione, bisognerebbe fare qualche cosa, per qualche trasmissione per sensibilizzare, perché è un peccato veramente. Grazie Giuseppe, buona serata. Welcome Italia, i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. continuate a chiamare all'800 24 00 24 per dire la vostra anche sulla borsa termica, se accade anche nelle vostre spiagge che ci siano dei divieti o che vi chiedano, come accade a Marina di Pisticci, di pagare un extra di 5 euro. Non si discute l'inciviltà, ma il fatto che uno debba pagare un extra se va in giro con la borsa termica e non vuol mangiare al ristorante o al self-service dello stabilimento balneare, ma vuol mangiarsi un panino o della frutta portata da casa. Un divieto incomprensibile. Adesso invece parliamo della incredibile vicenda, anno 2017, accaduta ad un ragazzo milanese nato in Brasile, a cui è stata rifiutata l'assunzione in un albergo a Cervia, un'assunzione estiva, perché gli è stato detto bellamente che lui è di colore e questo proprietario dell'albergo non voleva gente di colore in sala. Se non fosse che c'è un SMS scritto, con tanto di testo chiaramente scritto, sarebbe da non crederci. E, ne parliamo con la segretaria provinciale della CGIL di Ravenna, Manuela Trancossi. Buonasera, benvenuta Manuela. Buonasera a tutti. Avevo contattato anche il ragazzo diretto interessato, però non vuole intervenire. Siete stati voi a sollevare questa vicenda. Ripeto, se non fosse che c'è proprio un SMS che gli è arrivato a questo ragazzo scritto nero su bianco, sarebbe da non crederci. Invece? Invece è vero, è tutto reale. Diciamo che anche noi subito non ci credevamo. Poi il messaggio non lascia dubbi e quindi abbiamo dovuto prendere atto che in questo paese esistono ancora persone incivili, se penso a quello che dicevate prima, ma oltre a essere incivili, stupide e ignoranti, mi permetto di dire. Il ragazzo è un ragazzo come tutti i ragazzi di 29 anni che cerca di costruirsi un futuro e quindi si è attivato per trovare un lavoro. Non era la prima volta che veniva in Riviera a lavorare, non si aspettava certo una roba del genere. Ha accordato con il titolare dell'albergo tutto, sì, il percorso. Sono rimasti al fatto che doveva mandare il documento per preparare il contratto, quindi i dati anagrafici. Quando è arrivato il documento con la foto, Il ragazzo ha un nome e un cognome italiano, ma perché è nato in Brasile. Praticamente milanese, quindi milanese anche come accento. 26 sì. anni, cioè è nato in Brasile, ma all'età di 3 anni è arrivato a Milano, ne ha 29, quindi è a tutti gli effetti all'accento milanese. È un ragazzo come tutti, ma a prescindere dal fatto che sia o abbia accento milanese, che sì. sia cittadino italiano, cioè il fatto di per sé, dal nostro punto di vista, è un fatto di una gravità assoluta. Allora, voglio leggere, scusa Manuela, il testo dell'SMS, per così gli ascoltatori possono giudicare. Questa è la motivazione con la quale il titolare dell'albergo ha scritto a questo ragazzo spiegandogli che non poteva più assumerlo. Mi dispiace Paolo, ma non posso mettere ragazzi di colore in sala qui in Romagna, la gente è molto indietro con mentalità, scusami ma non posso farti venire giù, ciao. Cioè quasi ad attribuire agli altri, no? Esatto. Forse per me ti farei anche venire, però qui la gente, ma veramente la gente in Romagna è così guarda, io vivo in Romagna da sempre, ci sono nata generazioni di romagnoli. Direi che no, non posso negare che anche in Romagna, come in tutto il resto del paese, ci siano persone che anche sull'onda di quello che continuamente sentiamo si stiano scaldando gli animi e nei confronti dei ragazzi di colore soprattutto o degli extracomunitari c'è un attimo di tensione, però no. Comunque questo è un razzista che scarica sugli altri. Cioè avessi detto non ti assumo perché hai l'orecchino al naso, che ne so, non mi piace. Sai, anche questa hai capelli... è discriminazione, però... Sì, però perché quello che uno potrebbe dire a favore del titolare dell'albergo è dire uno è titolare di un'attività, decide lui chi assumere oppure non assumere. Certo, però certo, se lo fai con quella motivazione lì, allora non va bene, perché diventa una forma ovvia di razzismo, ma è anche certo. un reato? Diventa un reato anche? Noi stiamo valutando, senz'altro è un discrimine incredibile che per me è reato, discriminare le persone per colore, razza, religione, sesso e quant'altro. Quindi adesso con i legali stiamo valutando di capire che tipo di percorso fare per dargli una copertura legale e per avere comunque il riconoscimento della dignità in quanto persona. a prescindere dal colore e, da, e dal luogo in cui è nato. Ne arrivano molte di segnalazioni così alla CGIL in Romagna, guarda, per esempio, ci sono tanti alberghi o no? Noi abbiamo sì qualche sentore che ci sia qualche caso, però così eclatante no. Non abbiamo mai avuto casi così lampanti. Poi è vero che soprattutto con i ragazzi stranieri diventa difficile denunciare una roba. Paolo deve ridare anche adito che ha avuto il coraggio di denunciarla questa cosa, perché molti non hanno questo coraggio di denunciare, però noi non abbiamo, non possiamo dire che non abbiamo la percezione che il fenomeno sia così diffuso in Romagna. Qualche caso c'è, ma non certamente a questi livelli. Infatti la cosa ha offeso anche a noi in quanto cittadini, non in quanto romagnoli, ma in quanto cittadini, perché penso che insomma è lampante che quel messaggio è offensivo per tutte le persone. Va bene, grazie Manuela Trancossi, segretaria della CGIL di Ravenna, che insomma, ci ha raccontato la vicenda di questo ragazzo, poco più di 20 anni, grazie, buona serata, che appunto dopo aver fatto tutta la trafila, aver mandato il curriculum, andava tutto bene per questo titolare di questo albergo a Cervia, poi gli ha detto non posso assumerti perché sei di colore. 800 24 00 24, cari ascoltatori, rientra nelle facoltà del titolare di un'attività privata che sceglie liberamente, questo è ovvio, chi assumere e chi non assumere, ripeto, puoi dire a uno non mi piace perché hai l'anello al naso, non mi piace perché hai le trecce rasta, i capelli troppo lunghi, non voglio in sala uno che abbia un aspetto di quel tipo, ma puoi dire tu a una persona non ti assumo perché sei di colore? O è banalmente un razzismo involontario, ma di fatto un caso di razzismo. Poi l'Italia non è tutta così, perché ci sono anche altre storie da raccontare, magari dopo le raccontiamo. 800 24 00 24, Gianluca da Pavia, benvenuto. Buonasera, buonasera. Niente, io volevo intervenire, parlare a proposito dell'ultima diciamo, dell'ultimo evento, sì, su quello che riguarda il razzismo. Ma io mi meraviglio ancora di più che la signora sindacalista si sia accorta e non abbia creduto che purtroppo nel nostro paese ci sono situazioni di questo tipo. Vorrei ricordare alla signora sindacalista che ancora peggio, ci sono donne che non vengono assunte solo perché hanno dei figli, ci sono persone che non vengono assunte solo perché hanno l'orecchino o perché probabilmente invece che mettersi il mocassino si mettono le scarpe da ginnastica. Quindi dire e puntare il dito solo perché oggi fa comodo ai signori di sinistra che c'è il razzismo mi sembra davvero esagerato. Io dico invece che stanno esasperando le persone, purtroppo c'è chi reagisce in modo diverso, c'è chi invece tendenzialmente tende a proteggere. Scusa, ma perché è esagerato? Che colpa ha questo ragazzo Paolo, milanese di fatto, che è nato in Brasile e che aveva tutte le carte in regola per lavorare, che non lavora solo perché è di colore? Che colpa ha questo ragazzo qua? Questo ragazzo non ha nessuna colpa. Il problema, allora, è, dov'è l'esagerazione? Il problema è l'esagerazione è del fatto che noi purtroppo in questo momento in Italia, e ne parlo, io tra l'altro lavoro con tantissimi extracomunitari e gente di altri paesi, posso garantire che gli stessi extracomunitari, tra virgolette, regolari, mi segnalano, lavorando nel mondo delle cooperative, tutto il resto mi segnalano che questo tipo di immigrazione che noi stiamo avendo non fa altro che portare in casa nostra la delinquenza. Ma questo inevitabilmente... Ma cosa c'entra questo ragazzo che è nato... aveva tre anni quando è arrivato in Italia, è figlio di una famiglia di italiani. Cosa c'entra? Il problema è che ha sempre il colore, la gente purtroppo poi fa di tutto un erbo un fascio. Il problema è che si è creato in Italia un allarmismo talmente alto, no? Ormai abbiamo la sindrome dell'accerchiamento. Questo sì, questo è possibile, questo sì. E questo purtroppo è dovuto dal fatto di che cosa? Che non ci sentiamo più sicuri. Non ci sentiamo, ed è sbagliato, io non sono razzista, ritengo che sia sbagliata questa cosa. Ritengo ancora più scandaloso che la signora della CGIL non ci credeva. Mi sembrano sempre questi UFO che scendono dal pianeta e tutto ad un tratto si rendono conto che nel mondo del lavoro accadano queste cose. Va questo bene. Fa capire che la CGIL tutto è tranne che a fianco del lavoratore, te lo posso garantire. Grazie Gianluca, ciao, buona serata. Enzo da Bologna, vai. Sì, pronto, salve. Togli viva voce, togli... Abbassa la radio, scusa, abbassa la radio e ascoltaci direttamente al telefono, se no non sì, ci sentiamo. Vai. Volevo parlare riguardo al discorso dei rifiuti. Io ricordo che quando ero giovane, quando si andava al bar si prendeva la bottiglietta della bibita eccetera, eccetera, si pagava, che so, i 20, le 20 lire, le 50 lire, che ti rendevano quando le riportavi indietro. E c'era una lotta, c'erano i ragazzi che giravano, ma posso prendere la bottiglietta, posso prenderla. Finché non si va attaccato al soldo, la gente fa fatica a imparare l'educazione. Cioè tu però proponi di ritornare a quello, cioè a monetizzare il vuoto, a rendere la bottiglia, eccetera. Faccio due esempi. Allora, a Riccione. Sì, però guarda che ci sono tantissimi contenitori usa e getta di plastica che non per cui non potrebbe valere quel discorso lì, Allora diciamo che dove è possibile fare il discorso premiante si può fare. Sì. E faccio due esempi. A Riccione ci sono dei raccoglitori delle bottiglie di plastica che quando uno mette dentro, diciamo così, una certa quantità, viene fuori un bigliettino il quale dà la possibilità di andare, che so, nel bar, nel caffè, eccetera, da spendere in nei locali in sì, loco. Sì, è vero, quindi, ce ne sono tanti di questi sistemi e funzionano. Sì. Qui dove abito io, c'è ad esempio la cooperativa di consumo che ogni tot bottiglie ti dà un pacco di pasta, ad esempio. Allora, questo è un discorso premiante, poi c'è il discorso punitivo. Io vedo tantissima gente che mette nei rifiuti, le cose sbagliate, anche a me mi fa infuriare quando nel condominio scendo e butto e vedo che dove c'è l'organico ci sono cose che non ci dovrebbero stare, divento matto, perché non è difficile, no? Però... Esatto, non ci vuole molto a macchia di leopardo fare sì. Qualche puntata e dire bene signori, questo è qui il vostro contenitore, facciamo un'analisi, c'è il 30% di materiale che non ci deve essere, bene, la prossima volta avete 50 euro di multa, vedrà che in 448 la voce si sparge e la cosa si sistema. Va bene Enzo, grazie, buona serata. Carlos da Pescara. Buonasera. Vai. Senta, chiamavo, io sono di Pisticci, vivo a Pescara per lavoro e appunto volevo... Ah, quindi sei dal luogo incriminato, cioè Marina di Pisticci, dove c'è questa spiaggia? E che tra l'altro la prossima settimana mi ci reco per le ferie, anche nella Sapevi di questa spiaggia che chiede 5 euro? Per no, la borsa termica. Non sapevo, sinceramente le posso dire che in quella spiaggia erano moltissime le persone che lasciavano immondizia dappertutto, e, anche perché non c'erano bidoni per l'immondizia. E adesso mi piace la battaglia come il sindaco sta gestendo l'immondizia, perché ha portato la differenziata e sta risolvendo diversi problemi. Ma sinceramente pagare 5 euro per poter andare a mangiare in spiaggia non credo che sia la soluzione contro la maleducazione delle persone. Grazie Carlos, buona serata. 800 24 0024 GR, torniamo subito dopo. Oggi abbiamo deciso di parlare di bolle, le bolle. Quei corsi di borsa, dei mercati, prendono il volo, ci sono quotazioni mostruose, bellissime, entusiasmanti, e poi tutto d'un tratto pam, puff, e arriva la fregatura. Insomma, fregatura. È un po' un serpente corallo, diciamo la verità. Direi che è proprio crudele come fine. Dietro la bolla spesso c'è una balla, con licenza parlando. Perché sennò non crescerebbero così tanto i corsi borsistici. Magari c'è un eccesso di valutazione del titolo. Quello. All'inizio, quando viene attribuito un prezzo da un advisor. Il serpente corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ogni sabato alle 9 su Radio 24. Ma quanto sei bello, serpente corallo, tutto colorato di rosso e di giallo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E 15 minuti, buonasera ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare. 800 24 00 24, stiamo insieme fino alle 20. Due temi scatenanti questa sera. Uno, quello che è accaduto a Cervia, dove il titolare di un albergo ha rifiutato l'assunzione a un ragazzo perché è di colore. dopo che aveva valutato positivamente il suo curriculum, quando ha visto la foto sulla carta d'identità per corrispondenza, gli ha detto: no, non ti assumo perché non voglio problemi. Un caso di razzismo preventivo. Questo titolare forse, anzi, dice tra le righe: non voglio limitare i miei affari, il mio business. Una persona di colore in sala nel mio albergo non la voglio. 800 24 00 24. E poi la borsa termica, Marina di Pisticci, 5 euro per entrare in spiaggia con la borsa termica, un divieto giusto? Che cosa accade nelle vostre spiagge? Si può vietare alla gente di mangiare in spiaggia? Secondo me è un divieto terrificante. Io sono tutta, farò una protesta, andrò con le borse termiche da solo a Marina di Pisticci, due me le porto, perché non è possibile. Francesco da Firenze, buonasera, benvenuto. Sì, buonasera. Io in realtà vorrei intervenire sul discorso del problema dell'immigrazione. Vai. Anche se il problema del sudicio in spiaggia purtroppo è molto presente. Ma io volevo, diciamo, fare un ragionamento a corollario di quello che aveva detto precedentemente quell'esponente del Movimento 5 Stelle. Sì, Frusone, che dice, certo. Sì, che diceva che giustamente non ci si può limitare a considerare il problema su quello che riguarda le coste, dobbiamo andare un po' alla sorgente del problema nella zona subsahariana, dove nascono sostanzialmente questi flussi o dove comunque si convogliano per poi raggiungere le coste della Libia. E ormai è acclarato, diciamo, che queste grandi masse di popolazioni sono spostate da due motori principali, che sono: una, l'espansione cinese nel continente africano. E proprio ieri la Cina, o ieri l'altro, la Cina ha inaugurato una sua base militare a Djibouti, per dire quanto si sta impegnando nella conquista del paese e questa, del continente. E questa conquista del continente avviene proprio anche con il popolamento del continente, con popolazioni provenienti dalla Cina. E il, lo cioè tu dici che la Cina sta popolando l'Africa di cinesi e sta mandando via gli africani? Esattamente, esattamente. Ci sono le grandi infrastrutture. Sì. Che la Cina sta realizzando in Africa, le sta realizzando con manovalanza e con imprese cinesi, e servono per poi stabilire in Africa popolazione cinese. La popolazione autoctona africana viene spinta dalle campagne in queste megalopoli, di cui non sappiamo più neanche il numero degli abitanti, variano dai 5-20 milioni di abitanti, non sanno neanche loro quanti sono. E poi chiaramente da queste megalopoli le popolazioni vengono spinte verso l'Europa, a mio avviso proprio con un obiettivo di destabilizzare anche il continente europeo. Volutamente, cioè, sarebbe una strategia un po'... Scusa però Francesco, sarebbe una strategia un po' complessa, cioè la Cina va a realizzare delle infrastrutture in Africa, cosa che è verissima, sta accadendo, per popolare l'Africa a sua volta di cinesi, per fare in modo che gli africani vadano in Europa, per destabilizzare l'Europa, per conquistare l'Europa. Sarebbe veramente un risico, ti danno l'obiettivo conquistare l'Europa e tu fai il giro per l'Africa. Affascinante come teoria, fascinosa come teoria. Boh, non lo so. Grazie Francesco, buona serata. Giuliano da Lecco, sentiamo che cosa ne pensano gli ascoltatori. Perché che la Cina stia investendo massicciamente in Africa, questo è quello che si sa, in dubbio, quello che si vede. Giuliano, vai. Sì, no, io volevo parlare di quel ragazzo che è stato escluso per lavorare all'albergo. Ecco, lo trovo molto ingiusto, perché a prescindere da tutti i ragazzi italiani, come me sono italiano, che dovrebbero alzarsi la mattina alle 6:30 andare a lavorare, prendessero proprio esempio da dei ragazzi invece che dicono: va bene, io devo farlo, lo faccio perché devo entrare nel campo. Quindi magari prendessero esempio magari tanti ragazzi italiani di 17-16 anni che non ha voglia di lavorare. Sì, certo, questo è uno dei tanti ragazzi, questo ragazzo di Milano, nato in Brasile, che ha mandato il curriculum per fare la stagione a Cervia. Tu che lavoro fai, Giuliano? Io sono una vigilanza, una guardia. Ok, tu dici comunque, quindi è sbagliato soprattutto penalizzare un ragazzo volenteroso, esatto, che ha voglia, esatto, di andare a lavorare. Perché perlomeno si dà da fare. A me piacciono le persone, perché io ne conosco tante, sì, extracomunitarie. Se rimboccano le maniche, dicono: va bene, ok, io sono venuto in questo paese, mi rimbocco le maniche, e faccio quello che devo fare, basta. Se mi sta bene, mi sta bene. Se mi sta bene, torno al mio il paese. Punto però, il punto è però, Giuliano, io intanto ti ringrazio per il tuo intervento, è capire se il titolare dell'albergo di Cervia può avere come dire, toccato un tasto, può avere fatto una previsione corretta, cioè avere un ragazzo di colore nel suo albergo avrebbe potuto limitare i suoi affari, perché la gente è diffidente. A me questa sembra una cosa impossibile. Io immagino non immagino che questo possa accadere, che qualcuno possa dire non entro in questo albergo perché c'è uno di colore. Per me è una cosa lunare, però è possibile che questo invece accada oggi, anno 2017, che ci siano nostri concittadini che non entrano in un albergo perché vedono che alla reception magari c'è una persona di colore. E questo ve lo chiedo a voi, cari ascoltatori, all'800 24 00 24. Adesso c'è un aggiornamento sulla infinita vicenda dei centurioni romani, perché se ne è parlato tante volte, centurioni sì, centurioni no. Oggi siamo sul centurioni no, perché il TAR ha respinto il ricorso contro l'ordinanza della giunta Raggi che aveva vietato ai centurioni di presentarsi intorno al Colosseo per farsi fotografare dai turisti. E allora noi ne parliamo con l'avvocato Enrico Lubrano, che difende l'associazione dei centurioni di Roma. Buonasera. Buonasera a tutti. Lubrano. Allora, perché questa ordinanza, lei ha detto, è illegittima? Che cosa c'è di illegittimo in questo divieto? Allora, ci sono tutta una serie di profili, io cercherò di toccare solo quelli fondamentali perché sennò ci dilungheremmo troppo. Intanto la novità è che abbiamo già proposto appello cautelare con richiesta di decreto presidenziale, quindi di immediata sospensione dell'ordinanza del TAR di ieri. Cioè, andata al Consiglio di Stato, eccetera. Al Consiglio di Stato, ci aspettiamo il decreto tra domani e lunedì, e comunque la fissazione alla Camera di Consiglio al 31 di agosto. Però mi spiega che diritto viene leso. Allora, da per capire ordinanza. La situazione dei centurioni, sì. È opportuno fare delle precisazioni e capire il contesto generale. Qui c'è un'associazione di centurioni che è costituita da 10 persone che sono state tutte ammesse in quanto prive di precedenti penali e che da sempre esercita questa attività con le originarie divise fedeli rispetto a quelle degli antichi centurioni romani, senza ledere in alcun modo il decoro, perché le divise sono fedeli, nella sicurezza pubblica, perché mai si sono resi protagonisti di alcun episodio negativo che sia stato mai posto a verbale. Questo è quello che riguarda soltanto gli appartenenti all'associazione Centurioni, 10 persone. Sì, però la sentenza non fa distinzione, no? I ricorrenti, e questo è il grave vulnus della decisione. Cioè, la sentenza non fa distinzione tra... Scusi avvocato, un attimo. La sentenza, però, lei ha fatto questa distinzione tra associazione dei centurioni e, diciamo, abusivi al 100% e, come nel caso vostro, abusivi al 50%, perché comunque per il comune lo sono. Per il comune lo sono, per il TAR non lo sono stato fino a ieri. Le faccio questa distinzione perché io personalmente, per esempio, non ho nulla contro i centurioni, se non fanno male a nessuno, se non molestano nessuno, anzi, per l'amore del cielo, io sarei liberale, rientro tra quelle persone che non pensano che ci sia niente di scandaloso, quindi non le faccio la domanda perché ciò con i centurioni. Però questo è quello che dice l'ordinanza, non c'è distinzione. Io ci tengo a dare una corretta informazione perché possa avere un quadro corretto delle cose, perché ho visto che c'è stata molta disinformazione da parte anche dei media. Allora, questa associazione Centurioni chiede al comune di fare un regolamento sui centurioni da sempre e non ha mai ricevuto alcun riscontro. A un certo punto il comune esce fuori con questo primo provvedimento che dice tutti i centurioni ledono decoro e sicurezza e quindi stop. Cioè, invece, impugniamo, voi dite ci sono centurioni che fanno parte primo, di. Scusi, esatto, avvocato. Scusi un attimo. Scusi, no, aspetta, allora, mi faccia spiegare meglio quello che ha detto. Perché si parla uno per volta. Allora, sì, se parla lei, l'ascolto. No, parlo io. Esatto, ascolti, perché così gli ascoltatori capiscono. Perché lei fa l'avvocato, giustamente, però usa anche dei termini che magari non sono chiarissimi. Lei dice che voi avete chiesto al comune di regolarizzare questa associazione, questi centurioni, che sono, dal vostro punto di vista, meno abusivi degli altri. E il comune ha detto no a nessun tipo di figurante in maschera attorno al Colosseo a chiedere soldi, eccetera, eccetera. Questo. Allora, l'associazione ha chiesto una regolamentazione della categoria dei centurioni. Il comune non ha semplicemente mai risposto, non è che ha detto no. A un certo punto il comune interviene e dice c'è lesione di decoro e sicurezza pubblica e quindi stop per tutti. Fa ricorso la sola associazione e i soli 10 appartenenti all'associazione. Dimostriamo in giudizio che non c'è alcuna lesione né del decoro né della sicurezza pubblica, perché le edilizie sono fedeli e perché non c'è mai stato alcun verbale nei confronti di queste persone. Il TAR accoglie con prima sospensiva e dice è vero, è attività lecita, non c'è lesione al decoro, non c'è lesione alla sicurezza, e il comune deve fare questo regolamento che effettivamente non può bloccare le cose perché non le disciplina. Questo credo che sia tutto facilmente comprensibile. Questo sì. Qual questo è sì. Il problema? Perché il problema però si è arrivati si allora adesso? Proprio sì. All'indomani della prima ordinanza, quella favorevole di fine aprile. Perché per giurisprudenza amministrativa consolidata le ordinanze cautelari hanno effetto soltanto nei confronti dei ricorrenti, anche quando riguardino provvedimenti di carattere generale. Sì. Quindi il nulla osta del TAR era soltanto per i 10 centurioni appartenenti all'associazione. Il comune invece non ha eseguito correttamente questa ordinanza secondo i principi della giurisprudenza amministrativa, ma ha lasciato aperta la porta a tutti coloro che a questo punto, visto il risalto mediatico che la cosa ha avuto, si sono buttati, noi li chiamiamo neocenturioni improvvisati, a fare i centurioni con effettivamente delle divise molto approssimative. Sì. E creando anche dei disturbi al godimento dei monumenti e alla sicurezza pubblica. Cioè, allora, sì, in questa situazione, sì, provenienza del cosiddetto decreto Minniti che ha dato al comune le possibilità di intervenire a tutela del godimento delle bellezze monumentali, il comune è intervenuto e ha detto allora non solo c'è lesione al decoro e alla sicurezza, ma c'è anche una situazione determinata da questo proliferare di neocenturioni ha determinato una situazione di disagio nel godimento delle bellezze monumentali. E quindi risospendo. Noi siamo tornati al TAR e abbiamo detto guardate, decoro e sicurezza noi sono state già escluse. Questa terza situazione, quest'unico elemento nuovo costituito dal disagio nel godimento dei monumenti di Roma è stato determinato dalla non corretta esecuzione dell'ordinanza del TAR da parte del Comune di Roma. Che il Comune di Roma, anziché aprire solo ai 10 vincitori di quel ricorso, ha aperto a tutti e quindi chiaramente ha determinato un proliferarsi oltre. Però scusi, io l'ho lasciata parlare, avvocato, però il punto è anche questo. Anche concludere. Sì, il no, TAR, ma lei sta parlando alcuni minuti, adesso dico io, faccio una domanda. Scusi, se no, guardi, perché lei ha già parlato abbastanza, mi faccia fare una domanda, perché il punto è proprio questo, cioè il fatto che perché devono essere solo questi 10 centurioni a fare i centurioni? Perché questo sa di racket, no? Noi siamo arrivati per primi, adesso lo facciamo noi, nessun altro. Cioè, no, se io mi vesto da centurione, allora, e vado scusi, al Colosseo, le faccio mi prendono a calci e mi mandano via. Le faccio una questo domanda. Non va allora, bene, però. C'è un provvedimento che ci riguarda tutti e due. Lei fa ricorso, si impegna, spende dei soldi, delle aspettative, tutto quello che è, non presta acquiescenza al provvedimento e ottiene ragione. Io sono rimasto fuori, non ho speso niente, non ho fatto ricorso, ho prestato acquiescenza al provvedimento. È ragionevole che l'ordinanza del giudice amministrativo, come dice la giurisprudenza amministrativa, abbia effetto nei confronti dei soli ricorrenti? È chiaro che è ragionevole. E quindi non è racket, è semplicemente applicazione di principi. Se lei contesta l'ordinanza, io le ho fatto una domanda a cui non ha risposto. Dopodiché, se vuole rispondere, ha ancora un po' di tempo, altrimenti abbiamo capito che su questo punto non vuole rispondere, cioè sul fatto che l'associazione. No, non è un pregiudizio. Io le chiedo, è giusto. Dico i principi del diritto amministrativo. I principi del diritto. No, non mi interessano i principi del diritto. Io le ho fatto una domanda. Le ho chiesto se è giusto. Le ho chiesto se è giusto. I principi di diritto amministrativo. Allora. Chiami un ingegnere, chiami un architetto. No, non interessa a nessuno i principi del diritto amministrativo. Io le ho fatto allora una domanda. Lei fa l'avvocato. Vogliamo portare un'ordinanza del TAR? Io le ho fatto una domanda che non c'entra nulla con l'ordinanza del TAR. Le ho chiesto, è giusto che a fare i centurioni debbano poter essere solo queste 10 persone? E se io mi metto col costume, vado al Colosseo a farmi fare la foto con i turisti e farmi dare un euro, vengo preso a calci e vengo mandato via? Questo le chiedo, questa è la domanda. Giusto. Allora, questo dice la precedente ordinanza del TAR, è giusto che nel periodo di tempo in cui il comune non avrà ancora regolato questa categoria possano fare la relativa attività soltanto coloro che sono stati regolarmente autorizzati dal TAR. Questo era il contenuto della prima ordinanza. Il comune l'ha travisato, ha aperto e quindi chiaramente ha determinato questa proliferazione, ha determinato il secondo provvedimento. Questa è la situazione. Stiamo quindi perdendo la linea, tra l'altro, avvocato, quindi io adesso la saluto, ma non per sì. Prego, finisca, guardi, finisca. No, non è un discorso di posizioni consolidate, è un discorso di diritto processuale amministrativo. Se lei vuole commentare un'ordinanza del TAR, deve ammettere i principi di diritto processuale amministrativo, per cui se questi, giusto o sbagliato, dicono che l'ordinanza è effetto nei confronti dei soli ricorrenti, questo è il risultato. E quindi questa è la situazione. Grazie, buona serata. Grazie, avvocato. 800 24 00 24, come sempre su questa cosa, amici romani soprattutto, potete chiamare e dire la vostra. La notizia di oggi è che il TAR ha respinto il ricorso, quindi è legittima l'ordinanza della giunta Raggi che dice stop ai centurioni, tutti però in questo caso, 800 24 00 24. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. E allora, torniamo agli ascoltatori con Orazio che ci chiama da Parma. Orazio, benvenuto, vai. Buonasera, io volevo segnalare solo una cosa. Sono appena tornato dall'Adriatico, ero in vacanza di una decina di giorni, sì. Cioè, non ho assolutamente niente sul fatto dell'assunzione dei ragazzi di colore o altri stranieri, del personale da parte degli alberghi, però a me è successa una cosa molto strana, sono andato lì e il cuoco era uno di colore. Penso di non aver mai mangiato male in vita mia da nessun'altra parte del mondo. Aiaia, era di colore, ma era anche un cattivo cuoco. Sì, cioè, era solo per segnalare che quando uno è in gamba, anche se di colore va bene. Il problema è che lì molto probabilmente l'hanno assunto gli davano del materiale non tanto buono da cucinare, oppure non era. Però scusa Orazio, questa era però diverso è il caso di un ragazzo che invece ha superato la prova col curriculum, e poi al momento in cui, capito, lì è diverso. Sì, ma infatti lì è assurdo che uno vada. Io ripeto sempre che ci sono centinaia oppure migliaia di ragazzi. Ma Orazio, cosa vi cucinava? Sono diplomati nella scuola alberghiera. Io ne conosco parecchi ragazzi che sono già diplomati da 2 o 3 anni, fanno le domande e non vengono neanche. Vabbè, questo accade a tutti, bianchi o neri. Che cosa vi cucinava il cuoco, Orazio? Tu, solo couscous? Addirittura solo couscous. C'era parecchie qualità di pesce che non segnalava neanche cos'era. Cioè lui segnalava come veniva cucinato. C'era un pesce che non avevo mai sentito, poi l'abbiamo guardato su internet, il maggiore esportatore era la Cina. Logicamente loro lo esportavano perché non lo mangiano più neanche loro. Non l'ho mangiato neanche io perché l'ho messo da parte. Pesce cinese, cucinato sì, da un poco cinese, di colore e risultato era pesce. Come si chiamava? Perché non l'avevo mai sentito, pur essendo ma... io un gran mangiatore di pesce. Come si chiamava quel pesce? Tilapia. Tilapia. Pilappia. Tilapia. Quindi, adesso indaghiamo, adesso indaghiamo sul pilappia, sì, Orazio, e vediamo di capire. Guarda, i primi poi erano quasi sempre identici, come sapore, che fosse ai crostacei, fosse ai frutti di mare. Vabbè. Però non erano buoni. Va bene, abbiamo capito, Orazio, grazie. Capito. Buona serata, grazie. Pilappia, come ha detto? Pilappia. Moreno da Lucca, vai. Ma anche io volevo intervenire per quel ragazzo di colore. Io non lo so se è una questione di razzismo o cos'è, ma volevo solo, mi chiedevo, ma allora tutti quei casi, e ce ne sono tanti, di magari ragazzi esclusi da quei lavori perché non hanno bella presenza, perché non hanno la fisicità attraente per quello che può essere il pubblico, allora quelli come li chiamiamo? Come non li chiamiamo? So. Non lo so, Moreno, dimmelo tu, come li chiamiamo? Non lo so, forse... è ipocrisia allora pensare solo a questo ragazzo di colore. Io personalmente non ho niente contro, però allora tutti questi casi esclusi, ma perché uno esclude l'altro? Cioè uno esclude, non è che siccome non assumono una ragazza perché non è carina allora è giusto che un ragazzo di colore non venga assunto? Cos'è, la par condicio delle stupidaggini, delle cazzate? No, ma non però facciamo fa più clamore questo ragazzo di colore non assunto. No, ha fatto clamore anche ragazze che non assunte perché gli hanno chiesto se si volevano sposare, ragazze non carine, fanno clamore tutte. Almeno dal mio punto di vista, Moreno. Stasera poi stiamo a discutere di questo ragazzo. Stasera discutiamo questa perché oggi la cronaca, 3 agosto, cos'è il 3 agosto? 3 agosto 2017 c'era questa notizia qua. Domani ce ne sarà un'altra. Grazie, Moreno. Buona serata. Adesso invece, come per incanto, si è materializzato nelle nostre linee telefoniche il titolare dello stabilimento Marina, come si chiama? Cuba Libre, Lido Cuba Libre di Marina di Pisticci, Massimo Vena, buonasera. Buonasera. Benvenuto, io in apertura di trasmissione ho ricordato Grazie. La notizia su cui poi si è scatenato l'inferno, sulla borsa termica, infatti, favorevoli, contrari, chi dice la gente in spiaggia che è incivile, però glielo dico, la maggior parte delle persone... trovano assurdo questo divieto di portarsi la borsa termica, che poi non è un divieto, lei chiede una sovrattassa di 5 euro, è così? Esatto, diciamo che sostanzialmente si tratta di un modo come un altro per creare un deterrente allo scopo sostanzialmente di contenere il rifiuto indifferenziato, questa è la verità. Diciamo che notoriamente chi, diciamo, l'avventore occasionale che arriva in spiaggia munito di borsa frigo di grandi dimensioni, questo è precisato nel nostro cartello, di grandi dimensioni, esatto. Cos'è una borsa di grandi dimensioni, Massimo? Cioè, una borsa di grandi dimensioni sostanzialmente è qualcosa che assomiglia più a una bara che in realtà a una valigia, perché poi si sa esatto. Voi siete provincia di Matera, insomma, soprattutto al sud c'è un po' questa abitudine di andare. C'era, forse, al mare con la quintalata di lasagne. Grandi borse, diciamo, e creare, diciamo, sotto gli ombrelloni quasi delle aree picnic che naturalmente creano nocumento a chi, diciamo, queste abitudini non le ha. Nocumento. Esatto. Le borse sono consentite se sono di piccole dimensioni allo scopo di portare, che ne so, l'acqua piuttosto che una bibita o magari il cibo di un bimbo. Naturalmente in quel caso il sovrappeso non c'è. Però tengo a precisare una cosa in particolare, il pezzo medio degli ombrelloni dalle nostre parti è sostanzialmente basso, diciamo, si attesta tra i 12 costa? E 15 euro. Beh, un prezzo normale, Massimo, un prezzo normale, perché è lo stesso normale che si paga anche in Toscana dalle mie parti, 15 euro. Ma nel Salento in particolare, da Marina di Pulzano, come a Porto Cesare, piuttosto che a Gallipoli, un ombrellone con due sdraio costa circa 40 euro. Ma magari perché sono posti più belli. L'ingresso è vietato, non è consentito con un sovrapprezzo, è assolutamente vietato. Noi invece abbiamo creato questo deterrente, quindi noi consentiamo di entrare alle persone naturalmente chiediamo questo sovrapprezzo allo scopo di gestire al meglio la gestione del rifiuto sostanzialmente. Questo è quanto. Ma non è semplicemente un modo per far pagare qualcosa di più a chi far pagare qualcosa a chi non verrebbe a consumare lì da voi, a comprare il panino al bar o al self service del ristorante, che non so, ci sarà nel suo stabilimento. Sì, in effetti. Lei ce l'ha il ristorante, no? Sì, noi abbiamo tanto un ristorante quanto una vetrina per il food, diciamo. Perché io glielo dico, sembra proprio questo. È un po' ingiusto, no? Nei confronti di chi magari non ha una famiglia di quattro persone, che viene al mare e non ha i soldi per andare al ristorante, dove in quattro ci vogliono, non lo so quanto ci vogliono, sì, 50, però, 60, 80 euro ogni giorno, con... si portano il panino, sì, da casa. Io lo trovo. Sì, ma il panino da casa uno lo può anche portare in realtà, ma le borse frigo di cui noi parliamo sono delle borse che veramente non presuppongono il panino, cioè. Qua stiamo parlando di parmigiane, pasti al forno e cose del genere, però lei converrà con me che, diciamo, in una qualsiasi struttura, diciamo, che fa ristorazione, sì, sarebbe inopportuno portare anche solo l'acqua o un vino, per esempio. Beh, però al mare, no? Non si viene, come... al mare non è che si viene per mangiare, non è che entro al ristorante con un salamino, sì, in tasca, però vado al mare per fare il bagno prima di tutto, no? Per, certo, stare in spiaggia, certo. Poi se mi porto un panino sono affari miei. Però una spiaggia attrezzata non è propriamente un'area picnic, diciamo, una spiaggia attrezzata, no, beh, certo, è uno spazio in cui normalmente chi va al mare. L'area picnic è un modo di dire che può essere ambiguo, è vero, se uno tira fuori, apparecchia, apre una tavola, tira fuori il fornellino da cappello, scalda le lasagne, se io invece ho una borsa frigo, apro, tiro fuori dei panini o un'insalata o della frutta o delle cose e me le mangio sotto l'ombrellone, non vedo perché devo pagare 5 euro, questo stiamo dicendo, almeno io personalmente. Ma no, potrei, diciamo, in linea di principio anche essere d'accordo, però le ripeto, cioè, diciamo, la norma, diciamo, il regolamento, se così si può dire, non è né diciamo vietato dalla legge, né tantomeno è consentito, nel senso che non esiste una norma che vieta o autorizza il gestore a fare questa cosa. La nostra è stata una scelta, diciamo, mirata a contenere nei limiti del possibile, appunto, quelle situazioni di cui si parlava prima, che possono risultare scomode anche agli altri, voglio dire, perché il panino, la frutta, l'acqua, diciamo, sono cose che noi naturalmente autorizziamo a far portare all'interno. Quindi diciamo che queste possono entrare tranquillamente, non è che sono vietate. Ma sicuramente sì, sicuramente sì. Infatti la verità è che la protesta nasce sostanzialmente da un gruppo di persone che è arrivato al nostro stabilimento e ha portato 6-7 borse di grandi dimensioni, cioè quelli avevano intenzione proprio di fare tipo una pasquetta all'interno dello stabilimento. Normalmente. Beh, capisco che se uno arriva con 6 borse termiche qualche problema, qualche perplessità la possa destare. Però sono contento che sulla linea della borsa termica semplice si sia trovato quasi un accordo. Assolutamente, ma ripeto, noi all'ingresso dello stabilimento abbiamo prodotto un cartello che, diciamo, palesa questa, diciamo, nostra decisione, nella quale è specificato in maniera chiara che si tratta di borse frigo di grandi dimensioni, non naturalmente, poi lei saprà che ci sono borse di dimensioni anche ridotte che consentono appunto di portare il panino piuttosto che l'acqua o magari il cibo per i bimbi, che è una cosa che frequentemente accade, ma naturalmente una borsa di grandi dimensioni sembra un trolley, cioè non è una cosa, diciamo, che preferiamo ospitare nel nostro stabilimento. Ma quante persone hanno pagato fino ad ora il sovrapprezzo di 5 euro, tanto per capire? Più o meno la maggioranza rispetto a quelli che non l'hanno voluto pagare, diciamo, assicuro, noi abbiamo qualcosa come 200 ombrelloni, sì. E la maggior parte delle persone la borsa frigo non la porta di sua natura, e tra quelli che l'hanno portata posso dire che il 70% l'ha pagata, diciamo, senza battere ciglio. Sì. Certo, ha pagato i 5 euro. Esatto. Vabbè. Massimo Vena, grazie, buona serata, titolare del Lido Cuba Libre, avete sentito? Grazie a voi per la possibilità che mi avete dato di precisare puntualmente questa nostra scelta. Era doveroso, devo dire che poi borsa grande, borsa piccola, si potrebbe discutere, è chiaro che se uno arriva con una carrellata di roba da mangiare forse è eccessivo. Questo sicuramente sì, però è anche sgradevole sentirsi quello che si porta il mangiare da casa, no? Perché la gente che ti guarda, ma scusate, ma se io non voglio spendere i soldi per andare al ristorante e mi voglio mangiare un panino, ma mi volete lasciare in pace di farlo? 800 24 0024. Siamo qua ancora per 15 minuti circa. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sopralluoghi e rilievi sulla nave ONG messa sotto sequestro ieri a Lampedusa dai magistrati italiani. Prelevati alcuni computer a bordo, la Jugendrettet annuncia ricorso. L'Unione Europea con l'Italia, tutte le ONG firmino la convenzione. Oggi il SID e la tedesca CI, il commissario Avramopoulos, la legge Minniti è un buon passo avanti. La missione navale italiana in Libia, nuove minacce da parte di Haftar. Impediremo l'ingresso nelle nostre acque a navi straniere. Il governo, nessun pericolo concreto. Verona somministrava morfina a un neonato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Arrestata un'infermiera, l'ho fatto, avrebbe detto per farlo stare tranquillo. Un ragazzo di Milano non è stato assunto come cameriere a Cervia perché di pelle nera. L'imprenditore in un SMS: non posso farti stare in sala, qui la gente è indietro con la mentalità. Dal 2019 via dalle bollette le tariffe a maggior tutela, lo prevede la legge sulla concorrenza. I consumatori si rischiano rincari. Trenitalia multa dell'antitrust per pratiche scorrette. Fare pipì 10 euro, scrive un ascoltatore, eh? Al 349-238-6666. Andiamo con Massimo da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Volevo parlare in merito dell'imprenditore, diciamo, di Cervia. Sì. È stato un cameriere, ragazzo. Allora, io non mi farò mai prendere in giro nel valutare una persona in merito al colore che ha, perché giustamente tra persone civili ci si basa sulle qualità che ha una persona. Poi volevo dire, io sono almeno 20 anni che giro l'Italia per lavoro e sia ai ristoranti che negli alberghi ho notato sia nel personale sia persone di colore in sala che ai piani. Poi quindi... naturalmente non voglio spezzare una lancia in favore dell'imprenditore, secondo me l'imprenditore ha anche diritto a scegliere determinate persone, naturalmente doveva tenere per sé questa scusante, lui dice guarda purtroppo... Non doveva dire, beh certo se non l'avesse detto nessuno avrebbe fatto clamore perché non sarebbe stato chiaro che il motivo era quello, ma la domanda però è... il timore dell'imprenditore, giusto? Cioè, è possibile che avere una persona di colore in sala oggi, anno 2017, a Cervia, litorale romagnolo, crei imbarazzo tra le persone? Crei qualcuno che dice non entro perché c'è uno di colore? Ma io, allora, io quando sono andato a effettuare dei controlli del lavoro che faccio tra la Riviera Romagnola fino ad arrivare a Lanciano, in Abruzzo, sì. Ho notato molte cameriere rumene, anche belle. Quindi non cioè, l'hai sottolineato con una certa voluttà, eh? Belle ste cameriere rumene. Ho notato anche camerieri di colore, a me non mi hanno dato fastidio. Ci sono, a te non hanno dato fastidio, quindi anch'io mi domando perché il titolare di questo albergo, se non per un... forse per quello che diceva l'ascoltatore prima, perché in questo clima anche di polemiche, di veleno intorno alla questione dell'immigrazione, che qualcuno abbia potuto pensare a un rifugiato, a una cosa del genere, questo imprenditore prima di crearsi un problema ha evitato appunto di assumere questo ragazzo che ha pelle di colore. Però io credo, come dici tu, che sia un falso problema, perché credo che non dia noia realmente a nessuno, non possa dare fastidio a nessuno oggi, anno 2017, una roba del genere. Non lo so, però lo chiedo a voi ascoltatori. Marco da Como, vai Marco. Allora, oltre alla assurdità della notizia che è insita nella notizia stessa, è un'offesa per tutti i romagnoli, perché questa persona parla di arretratezza culturale e io, se fossi un romagnolo, mi arrabbierei. Certo, perché l'albergatore potrebbe riferirsi alla clientela internazionale o a però lui in effetti nel messaggio dice, sai, qui in Romagna bravo, la gente è molto indietro. Okay. E se la discriminante è il colore, la parola è una sola, è razzismo, perché è così, è inutile. Io ho 18 anni, ho a che fare con l'estrema povertà e quindi anche con gli immigrati, e un immigrato bianco che cammina per strada non fa irregolare, non fa lo stesso effetto alla gente, e purtroppo me lo dicono spesso, di vedere un immigrato di colore che cammina per strada. E è così purtroppo. E purtroppo una cosa finale che volevo dire, poi la saluto. Quando succedono i fatti di cronaca, purtroppo adesso si dice è stato uno straniero e manca l'italiano, è stato uno straniero e manca l'italiano. È una cosa, siamo veramente all'assurdo. Cioè, è stato bianco, è stato nero, è stato giallo, è stato verde. Un delinquente è un delinquente. Sì, vabbè, oggi il caso è questo, si parla di questo. Grazie Marco. Nino da Bari. Sì, pronto? Pronto, prego, vai. Sì, io senta, sono veramente senza parole per questa storia di questo ragazzo discriminato a Serbia. Credo che il proprietario dell'albergo sia il primo che evidentemente è così arretrato culturalmente da pensare che anche gli altri lo siano. E se poi invece è quello che sospetto clienti, anch'io un po', è quello che sospetto anch'io. Esatto, se poi ci sono clienti che sono così arretrati culturalmente, questi clienti probabilmente fanno la pipì nel letto, quindi dovrei essere contento di avere un ragazzo di colore che non li fa entrare. Do un servizio migliore agli altri clienti. Grazie, buonasera. Buonasera, Paola da Roma. Vai Paola. Buonasera, buonasera. Sì, io volevo intervenire non per il fatto poc'anzi parlato, ma più che altro per rivalutare un attimino la di Roma, e non messa in burletta da questi quattro centurioni da strapazzo, dove si presentano addirittura con le pantofole, con la posto di una tunica, una specie di grambiule, posto di un'erma addirittura, una calzetta in testa rossa con una scopa legata sopra. Beh no, non credo, perché quelli che lo fanno... Paola, quelli che non credo però che siano così, quelli che lo fanno sul serio sono vestiti bene. Sono le daghe o i gladi dietro la schiena. Io vorrei vedere qual è quella statua che riporta un centurione, e non si distingue la differenza tra centurione o un legionario, perché tanto tutto quanto è centurione va benissimo così. Non ho capito, vediamo se lo capiscono gli altri ascoltatori, sentiamo. Vediamo se lo capiscono gli altri. Lei ha già spiegato, però secondo me non è stata chiarissima. Claudio da Roma, vai. Salve, buonasera. Buonasera. No, due parole sui centurioni. No, sì. Non trovo veramente indecente il comportamento dell'avvocato. Perché? Una persona veramente intollerante, voglio dire. Si attacca ai cavilli per difendere una situazione. Sì, no, secondo me non si stava capendo niente di quello che diceva lui a un certo punto. Il classico avvocato azzecca Carbugli. Va benissimo se fai l'avvocato. Sì, esatto. Però io voglio che lui spieghi, voglio che la gente capisca, se no che sì, ci stiamo No, assolutamente. Comunque, guardi, lo spettacolo dei centurioni è una cosa indecorosa, che si somma a mille altre a Roma. Ma perché indecorosa, però? Io questo vorrei capire. Perché? Ma perché? Sì. Ma scusi, è un modo come un altro per chiedere un'elemosina, non è? Come diceva la signora prima, sono vestiti male, sporchi, insomma, abbastanza prepotenti, ma poi danno uno spettacolo della capitale veramente indecente. Scusi, se buffonate, io a Parigi, a Londra. Io ho visto semplicemente dei vichinghi in Irlanda, mi ricordo, stavano su una imbarcazione lungo la... Era anche una cosa simpatica, credo sia stata anche... No, sai dove reggono queste cose, Claudio? È lì che io volevo l'avvocato che arrivasse, però non ci siamo capiti. E, possono reggere forse come rievocazioni storiche, come momenti gestiti dalla Pro Loco, situazioni in maschera, cioè, con associazioni dietro che ci lavorano, associazioni di Pro Loco, eccetera, che poi non hanno nulla a che fare col discorso dell'elemosina, possono avere a che fare col folklore che si può creare attorno al Colosseo, e può essere anche divertente, perché uno si fa la foto senza dover dare per forza l'euro. quello è, potrebbe essere una scappatoia, però non si capisce se questa associazione di centurioni lavori su questo o no. Di fatto adesso con la giunta di Roma è tutto bloccato dopo questa sentenza del TAR. Giovanni da Reggio Emilia, però abbiamo pochissimo tempo, Giovanni. Sarò velocissimo. Io volevo confermare che avere ho una piccola azienda e avere del personale di colore può essere un problema. Io ho un figlio di colore e i miei clienti che non sanno che è mio figlio, se si presenta da solo per entrare in casa e fare dei lavori, è capitato più di una volta che non l'abbiano fatto entrare o mi abbiano chiamato per avere conferma che fosse. Che lavoro fate voi, Giovanni? Che lavoro fa suo figlio? Ci occupiamo di attività legate alla manutenzione all'interno di immobili residenziali. Però forse entrare in casa da altri è diverso che non entrare in un albergo e vedere una alla reception che è di colore, forse è diverso. Comunque non ho più tempo, purtroppo devo chiudere, grazie Giovanni, ci risentiamo domani 18:20, si può fare, ciao a tutti da Alessio Maurizi, un ringraziamento come sempre a Cristian Goldoni, Matteo Ramelli, Andrea Spenuso in redazione, Andrea Roccabella in regia, ciao a tutti da Alessio Maurizi, a domani.